Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il lavoro del cuoco è duro, ma le soddisfazioni, se sei bravo, sono tante. L'ambiente dove lavoravo era diventato come una famiglia. D'altronde, con i colleghi, ogni giorno passavo in media dalle 10 alle 14 ore lavorative. E quando stacchi a mezzanotte, nessun amico ti aspetta per uscire, quindi non è strano che i tuoi colleghi diventino anche i tuoi migliori amici. Mi chiamo Alberto Arrigoni, ho 36 anni e abito in provincia di Lecco. Ho una bellissima figlia di 10 mesi di nome Nicole. Ho sempre fatto il cuoco e da 10 anni ho aperto la mia gastronomia. Abbiamo chiuso venerdì scorso con un cuoco, apriamo oggi lunedì 25 giugno 2012 con un cuoco. Oggi lunedì 25 giugno 2012 è l'ultimo lunedì di diretta di questa stagione di Voi Siete Qui, che chiamerei stagione di Voi Siete Qui 2011-2012, giusto perché la fantasia a me, ma proprio mi fa uno schiaffo. Uno schiaffo inteso come capigliatura, e la prossima la chiamerei stagione di Voi Siete Qui 2012-2013. Benissimo, la stagione prossima comincerà a settembre, quella di oggi invece, quella di quest'anno, finisce venerdì, o meglio, venerdì finisce la diretta di questo programma. A partire dal lunedì dopo, per tutto il mese di luglio, va in onda quello che noi qui della redazione amiamo definire il meglio di, che è proprio in virtù della grande fantasia che scorre nelle vene di questa redazione. Da stagione 2011-2012 a il meglio di, la strada è veramente brevissima. In tutto il mese di luglio quindi potrete risentire alcune, non tutte ovviamente, perché si tratta di 215 storie. A venerdì, questa è la 211esima, giusto? A venerdì saremo 215, quindi quelle che sentirete in realtà saranno una quarantina, giusto? Perché saranno non una, ma due storie per puntata, sia nella prima, sia nella seconda parte, per tutto il mese di luglio. Mese di agosto poi... non lo so. Non... Margherita, cosa vuol dire questo segno? Moriamo, affoghiamo. Agosto non so che cosa accadrà qui, da settembre poi ripartiremo. Voi siete qui, @radio24.it è l'indirizzo email a cui potete continuare a mandare i vostri racconti. Lo dicevo a un ascoltatore, che era un osservatore in quel caso, perché era venuto a vedere lo speciale, lo spettacolo, il live di martedì scorso, che mi chiedeva: ma se uno ha già scritto una storia può riscriverla? La risposta è sì, in due casi: sia che uno l'abbia già scritta e non sia stata mandata in onda, e nell'altro caso è che sia che sia stata scritta e sia stata mandata in onda, salvo che non sia la stessa identica storia, cioè la stessa persona può mandare due storie diverse. Ragazzi, a fare tutta questa roba, tutte queste spiegazioni, quasi c'ho la camicia sudata. 349-238-6666, il profilo Facebook del programma è Voi Siete Qui Radio 24. In queste ultime 5 puntate abbiamo deciso di mandare in onda, non di fare delle puntate speciali, di fare delle puntate normali, però semplicemente scegliere dei racconti che riguardino quei macro temi che sono arrivati durante tutta la stagione, che sono poi i macro temi che riguardano probabilmente la vita di ognuno, che sono l'amore, che sono il lavoro, che sono la salute, come spesso è capitato di raccontare e di ricevere storie a tal proposito qui in questo programma, le passioni, mi pare, se non ricordo esattamente i temi di queste 5 puntate, la passione è la quarta, e poi la quinta, quella sì, possiamo dirlo, è una puntata speciale, anche se questo termine viene utilizzato a sproposito. Ragazzi, è da ieri sera che qualsiasi televisore ci sia accesa intorno a me, non qui, ovunque, ha il rigore di Pirlo calciato in quel modo. Ovunque ti giri c'è quel calcio di rigore lì. 349-238-6666, si parla di lavoro oggi. Abbiamo scelto la puntata di Alberto, il racconto di Alberto, non solo perché avevamo detto che c'era un cuoco venerdì e che ci serviva un cuoco oggi, perché il suo è un lavoro particolare, nel senso che fare il cuoco è un lavoro particolare, anche se è una cosa che ogni tanto le persone hanno la presunzione di poter dire: vabbè, ma uno sa cucinare, fa il cuoco. Credo che ci sia un po' di differenza tra sapere cucinare e gestire una cucina, poi lo chiediamo direttamente a lui. Però abbiamo scelto un lavoro abbastanza particolare, cioè quello del cuoco, per concludere e per parlare di lavoro in generale, perché di fatto quello che è accaduto in questo programma per un anno intero, e così accadrà anche per la prossima stagione, è stato quello che quando si sentiva la storia di qualcuno, anche se era una storia particolare, anche se era una storia molto lontana dalla nostra, che riguardava magari avvenimenti lontani da noi, nel tempo, nello spazio, mestieri diversi dai nostri, situazioni diverse da quelle che viviamo quotidianamente, eppure in quella storia c'era un pezzettino della nostra storia. Ecco perché, anche se siete degli agenti di commercio, o se siete delle casalinghe, o se state facendo qualsiasi mestiere che adesso non mi viene nemmeno in mente da nominare, e non sapete che cosa voglia dire accendere un fornello in cucina, ecco, nonostante tutto, la storia di oggi, la storia di Alberto, è anche un po' la vostra storia. 349-238-6666. Chiudo con, diciamo, le cose da dire utili, che sono che sul sito di Radio 24, attraverso la pagina di Voi Siete Qui, oltre a trovare tutto quello che trovate abitualmente, e cioè stralci della puntata di oggi, la fotografia di Alberto che vi racconterò più tardi, trovate anche il podcast audio del live del 19 di giugno, trovate anche attraverso il canale YouTube del programma, trovate innanzitutto tutte le basi, non ci sono, le basi che noi mandiamo in onda durante i racconti a partire da settembre dell'anno scorso fino ad oggi, trovate degli stralci del live del 19 video. Ah, ok, c'è tutto, non ci sono gli stralci, c'è tutto semplicemente diviso in capitoli. E quindi lì ci sono anche i video dei 10 ascoltatori, giusto, che hanno mandato il loro racconto. Il tutto tramite il sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui, o altrimenti passando attraverso il profilo Facebook del programma, che è Voi Siete Qui, Radio 24. Si parlava di lavoro oggi e si parlerà di lavoro per tutta la puntata, e lo facciamo attraverso la storia di Alberto, che è un cuoco. Sono le 8 e la sveglia continua a suonare. Come al solito non ho voglia di alzarmi. Apro gli occhi e penso subito che di mestiere faccio il cuoco. E oggi è domenica. Al ristorante ho 2 spose e 80 persone alla carta. E forse non è stata una grande idea andare a ballare ieri sera. Per fortuna mi viene in mente che oggi arriva l'extra a darci una mano. L'extra è un cuoco che viene quando si ha tanto lavoro e ci si deve dividere in 2 cucine. Come una specie di insegnante di sostegno. Faccio colazione e per 8:45 sono già negli spogliatoi a cambiarmi. L'aria è un po' da dopo festa, tutti stanchi e assonnati. Non vedo Teo, mio fedele compagno, che non prima di 5 ore fa avevo salutato con un «Ci vediamo tra poco al ristorante e mi raccomando, in forma, che sarà dura». Allora, l'essere cuoco è una cosa bellissima, praticamente è anche una passione, praticamente è molto bello perché qualsiasi cosa fai dopo la vedi realizzata, è quasi come un'opera d'arte, fare un piatto. Il lavoro del cuoco è duro, ma le soddisfazioni, se sei bravo, sono tante. Tutti ti criticano perché ognuno ha un gusto diverso da un altro e poi sono tutti bravi a parlare. L'ambiente dove lavoravo era diventato come una famiglia. D'altronde con i colleghi ogni giorno passavo in media dalle 10 alle 14 ore lavorative, sempre insieme. E quando stacchi a mezzanotte nessun amico ti aspetta per uscire, quindi non è strano che i tuoi colleghi diventino anche i tuoi migliori amici. Alle 9:30 arriva una telefonata. Teo era caduto in moto nel tornare a casa dopo la discoteca. Non era niente di grave, ma era in ospedale e per un po' non sarebbe venuto al lavoro. Devo ripetermi, forse il sabato sera, dopo 14 ore di lavoro, l'idea di andare in discoteca era stata azzardata. E quando ho visto Teo leggermente brillo, non avrei dovuto lasciarlo andare a casa in moto, avrei dovuto accompagnarlo. Mi sono sentito subito in colpa, ma anche io non ero perfettamente lucido, evidentemente. Purtroppo nella vita non si torna indietro. In più, il mio datore di lavoro mi aveva appena convocato. Era venuto a sapere della notte brava in discoteca e dopo una grandissima lavata di capo mi dice: «Alberto, ti sei divertito in discoteca?» Bene, ora, siccome manca un cuoco, la sposa da 120 persone nel salone di sopra, sarei costretto a servirtela da solo e ti serva da lezione. Sì, a quell'età lì ero molto giovane e avevo la forza per far tutto. Le cose. Adesso come adesso sono molto concentrato sulla mia famiglia, sul lavoro e basta. Il divertimento lo lascio un po' a parte. In quel momento pensai a quanto ero stato irresponsabile, che non solo avevo corso un pericolo, ma stavo dando problemi ad altri e avevo paura di non farcela. Ma il tempo stringeva e dovevo radunare tutte le mie forze, sia fisiche che mentali, per fare quel che dovevo fare al meglio. Giornata campale, giornata memorabile. Con l'aiuto della moglie del capo e di tutti i camerieri di sala è andato tutto alla grande, anzi sono pure riuscito a guadagnarmi una bella mancia dal padre dello sposo. A sera ero talmente stanco che non avevo nemmeno la forza di mangiare, ma ero felice ed orgoglioso dell'impresa. E il mio lavoro non lo cambierei con nessun altro. Il lavoro è stato un tema molto presente nei racconti che ci sono arrivati quest'anno. Perché il lavoro è una parte molto importante della nostra vita. E amare il proprio lavoro è una grande fortuna, come per Alberto. Che nasca prima la passione o la professione, poco importa. Se si riesce a fare qualcosa che ti dia soddisfazione, è una condizione invidiabile, e lo è sempre. Io ho sempre pensato che si trattasse di una fortuna per pochi eletti. Pensavo agli artisti, agli insegnanti, ai medici, ai piloti di aereo e anche a chi lavorava in radio. Quindi ho sempre ritenuto sfortunati quelli che erano costretti a fare un lavoro qualunque, uno che non fosse direttamente legato a una particolare missione o a un talento o a una passione specifica. E mi sbagliavo. L'ho capito qualche anno fa e per farlo ho dovuto andare fino a New York. Ero atterrato da poco all'aeroporto di Newark, quello secondario, quello che sta in un altro stato addirittura, nel New Jersey, dove arrivano i voli low cost. Stavo per prendere un autobus che mi avrebbe portato a Manhattan. C'era un autista di colore che faceva anche i biglietti e insieme caricava le valigie. Non eravamo in ritardo, però lui aveva molte cose da fare. Mi pareva uno sforzo esagerato per una persona sola. E poi qualcosa potevamo farla anche noi passeggeri, no? Per esempio, mettere le valigie nel vano dei bagagli. Tanto i portelloni erano aperti. E allora, mentre ero in coda per salire, mi sono staccato un attimo, ho preso il mio bagaglio, che era abbastanza pesante, e ho fatto per caricarlo. Sono stato subito richiamato dall'autista tuttofare, che mi ha detto qualcosa ad alta voce che mi ha fatto smettere. E non avevo sentito perfettamente cosa avesse detto, ma non ci voleva un genio per capire che avevo fatto un errore. Sono tornato in fila e quando è arrivato il mio turno di fare il biglietto, gli ho chiesto che cosa avevo fatto di sbagliato. E lui non mi ha sorriso, anzi, mi ha risposto con un tono piuttosto duro e mi ha detto: "It's my job", è il mio lavoro. E io ho preso il biglietto e sono salito pensando che lo sapevo che era il suo lavoro, ma io mica volevo rubarglielo, né il lavoro né lo stipendio, volevo solo dare una mano. Ero un po' avvilito sull'autobus e non mi accorgevo nemmeno dello skyline di Manhattan che si avvicinava all'orizzonte, perché stavo ancora ripensando a sta storia della valigia. E poi finalmente ho capito, o almeno credo di avere capito. Ed è che lui fa l'autista, carica le valigie e fa i biglietti. È pagato per questo, per nient'altro. E lui è fiero del suo lavoro. E la parte del facchino non era di meno valore rispetto a quella dell'autista, perché era il suo lavoro. E farlo bene per lui era importante. E così ci sono arrivato anch'io a capire che non è cosa fai che decide se stai bene o male, ma come lo fai, come lo vivi. Cioè, voglio dire, sono certo che posare il parquet sia faticosissimo, per esempio, ma non sono più sicuro che sia meno gratificante che parlare in radio, ad esempio. Anzi, a volte invidio un po' chi fa dei lavori che richiedono magari meno sforzo mentale, più sforzo fisico, più attenzione, più precisione. Non lo so, è forse perché non l'ho mai fatto. Forse perché da quel giorno a Newark guardi i volti di chi fa mestieri di fatica con un altro occhio. Amare il proprio lavoro è una fortuna, ma non dipende dal lavoro che facciamo, dipende da noi. Io amo il mio e forse voi amate il vostro. E se non lo fate, prima di provare a cambiarlo, cercate di godervi i risultati delle vostre fatiche. Che poi la cosa che mi viene da chiedermi è sempre quando penso a un lavoro, non un lavoro particolare, devo dire, a dire la verità, a qualsiasi lavoro, ed è: come hai cominciato a fare quel lavoro lì? Cioè, che cosa ti ha portato a farlo o perché hai deciso di farlo? 349-238-6666. C'è sempre un motivo, ovviamente. Poche volte avviene per caso. Solo nel caso delle grandi star hollywoodiane che quando prendono l'Oscar sul palco dicono: e pensare che io questo lavoro non volevo neanche farlo. Tu pensa, ho accompagnato un mio amico a fare un provino, hanno preso lui e hanno preso me e non lui. Oppure: ma io non lo volevo fare l'attore, ero alla fermata di un autobus, è fermata una macchina e mi ha detto: ma tu potresti fare un film. Ecco, di solito quelle cose lì succedono sul palco del Kodak Theater di Los Angeles. Invece nella vita reale uno sceglie di fare il proprio lavoro, semplicemente ci arriva attraverso determinati passaggi. Vorrei capire Alberto come ci è arrivato. Pronto Alberto? Pronto? Ciao, come stai? Bene, bene, molto bene. Sei in cucina? No, oggi sono in

mi venisse un termine, che ne so di come si chiama sta roba. Quello che farcisci di crema, poi lo schiacci ed esce la crema che guarnisce, no? Una specie di imbuto morbido, sì. E lui però è intentissimo a tenere in mano un setaccio e a spolverare la mille foglie di zucchero a velo. Come si chiama quella roba lì che schiacci ed esce sac à poche? Sac à poche? Va bene, Google dice sac à poche, quindi sac à poche sia. 349-238-6666, oggi nell'ultimo lunedì di diretta di Voi Siete Qui si parla di lavoro, lo si fa grazie al racconto di Alberto, che è un cuoco. Ci sono altri cuochi che scrivono, dilettanti e non. Ciao Matteo, in breve la mia piccola esperienza di cuoca. Si ammala la nostra cuoca storica, che si è sempre occupata dei pranzi di fine anno nella nostra comunità religiosa. Aiuto, che si fa? Mi offro baldanzosa. In fondo faccio spesso da mangiare per la mia famiglia, siamo in 12, peccato che lì fossimo in 80. Preparo la mia famosa arista di maiale al forno e ovviamente non la cuocio abbastanza. Panico totale, decido alle 12.15 di tritare tutto e fare polpette al sugo piccante. Per le 13.30 tutti e 80 a tavola felici. Un salutone da una nonna cuoca presuntuosa, scrive la nonna cuoca presuntuosa. Quelli che mia nonna chiama i fricce. Cioè, nel dialetto della mia zona i fricce sono... Vedo che qualcuno annuisce di là in regia, fortunatamente, Margherita. Sono polpette fritte, credo. Ma non fritte però, cioè sono passate nell'olio. Sì, è fritte. Però, cioè, il fritto di solito è immerso nell'olio. Vabbè, vabbè, va bene, va bene. Sono un consulente telefonico e fiorista. Due lavori pieni di soddisfazione. Antonio. Ora, Antonio, cosa fa esattamente un consulente telefonico? Cioè, è uno che sta a un centralino? O propone tariffe? C'è gente che propone tariffe? Cioè, che ti chiama e ti dice... Ah, come no, certo, salve, vuole sta tariffa? No, grazie! Ho un vivaio di piante da giardino. Cioè, da grande soddisfazione lavorare con le piante. Ho un vivaio di piante da giardino ed essendo il titolare e capo di me stesso, mi punisco lavorando fino a tardi oppure con il pile... sotto il sole battente, Andrea. Qui effettivamente nel racconto di Alberto si parlava di punizione, in quel caso semplicemente perché era andato in discoteca e diceva vabbè, mo i 120 del matrimonio te li fai tu. Qui Andrea invece addirittura si tiene il pile sotto il sole battente. A proposito di storie che parlano di lavoro e di punizioni, noi abbiamo pensato che, diciamo, la storia più eclatante che parlava di lavoro e di punizioni venisse da due secoli fa, ed era la storia scritta da Dickens, che poi si chiama Oliver Twist, o meglio non si chiama proprio Oliver Twist, si chiama Le avventure di Oliver Twist in italiano. In inglese era Oliver Twist or the Parish Boy's Progress. Eh? È strano che non sono su Wikipedia, no? Non riesco a capire come possiate immaginare che sia così. Però la cosa straordinaria di Oliver Twist, poi vi leggo solo l'incipit, prometto che vi leggo solo l'incipit, però è la trama, perché come tutti quei romanzi lì, essendo pubblicati, dicevamo, a puntate mensili, dovevano avere un intreccio incredibile, quindi doveva continuare a succedere qualcosa. E quindi voglio, solo, giuro, poi mi fermo, solo un pezzo della trama di Oliver Twist. Oliver è un orfano che nasce e cresce fino all'età di 9 anni in un orfanotrofio, dove soffre la fame e subisce i maltrattamenti del direttore Bumble. Poi viene assunto in un'impresa di pompe funebri, ma anche qui viene trattato male, così un giorno fugge e arriva a Londra, dove però, per ingenuità, si lascia coinvolgere da una banda di ladruncoli che vive nei bassi fondi della città ed è capeggiata dal vecchio Fagin. Così per il ragazzo comincia una vita sotterranea notturna insieme a Fagin, a Dodger Bates, Claypool e soprattutto Nancy, fondamentalmente buona ma traviata dal suo amante il violento Sykes. Un giorno la banda deruba il signor Brownlow. Oliver, spaesato, si allontana e correndo viene accusato ingiustamente di aver commesso il furto, eccetera, eccetera, eccetera. La storia va avanti in maniera incredibile. Ci sono tanti di quegli avvenimenti che manco in un'enciclopedia. Quello però che voglio leggervi è solo l'inizio di Oliver Twist, che è stato scritto da Dickens un bel po' di tempo fa. Non so quando, ma esattamente 1840. In tutte le città, tra gli edifici pubblici, c'è sempre stato un ospizio per i poveri. E nell'ospizio di una città che non voglio nominare, nacque un giorno il protagonista di questa storia. All'inizio sembrò che il bambino avesse deciso di evitare il faticoso esercizio del respirare e rimase sospeso tra questo e l'altro mondo. Certamente, se in quel momento il piccolo Oliver avesse avuto intorno zie, nonne, dottori, non l'avrebbe scampata. E in questo caso la nostra storia sarebbe già finita. Ma siccome lo aiutarono a nascere un chirurgo che aveva una gran fretta di tornarsene a casa per la cena e una vecchia ubriacona, Oliver decise di sbrigarsela da solo. Lanciò uno strillo e avvertì i ricoverati che aveva scelto di venire al mondo. Nello stesso momento sua madre lo baciò, lo accarezzò e dopo un lungo brivido morì. Il chirurgo se ne andò in fretta. La vecchia, dopo aver bevuto un sorso da una bottiglia, si mise a vestire il neonato con vecchi indumenti di cotonina ruvida e scolorita, che erano già serviti per altri disgraziati prima di lui. Ora Oliver piangeva a pieni polmoni e se avesse saputo di essere un orfano affidato alla pubblica carità, avrebbe pianto ancora più forte. Nei mesi che seguirono, le autorità della parrocchia da cui dipendeva l'ospizio, dopo aver cercato inutilmente di trovare qualcuno che adottasse l'orfanello, decisero di sistemarlo in una succursale dell'ospizio non molto lontana, dove una trentina di ragazzi vivevano affidati alle materne cure della signora Mann. Che di esperienza, che sapeva bene ciò che ci voleva per far star bene un bambino e meglio ancora ciò che occorreva per far star bene lei stessa. Perciò si guardava bene dal rischiare che i suoi ragazzi soffrissero di indigestione e così usava solo una minima parte del poco denaro che le veniva consegnato ogni settimana e metteva da parte il resto, riducendo le razioni. A 9 anni Oliver era diventato un ragazzino pallido, magro, di statura piuttosto bassa, sopravvissuto solo grazie all'enorme spirito di adattamento di cui lo aveva dotato madre natura. Festeggiò il suo compleanno chiuso nel ripostiglio del carbone dopo una sonora bastonatura, insieme con altri 2 ragazzi, colpevoli come lui, di avere detto che avevano fame. Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro, che purtroppo è privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla Terra, ma questa è una verità che non molti conoscono. Io ringrazio moltissimo Stefano da Biella che mi ha scritto: ciao Matteo, leggi l'introduzione della Chiave a Stella di Primo Levi, è in tema ed è fantastico. Ed è effettivamente in tema ed è anche fantastico, e oltretutto la Chiave a Stella di Primo Levi, pubblicato nel 78, ha vinto il premio Strega nel 79. A questo proposito, se avete voglia di partecipare alla serata finale del premio Strega di quest'anno, potete andare sul sito di Radio 24, c'è un boxino con scritto premio Strega, e votate qual è secondo voi il vincitore nella dozzina di partecipanti, di finalisti alla fase finale del premio Strega. Votate, e se vincete, lo saprete il 30 di giugno ascoltando il Cacciatore di Libri, potete andare direttamente al Ninfeo di Villa Giulia, al tavolo di Radio 24, ad assistere alla finale. Grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Alberto, parlava di lavoro. Quella di domani è la storia di Paolo e parla d'amore. Vi scrivo questa mail distinto, proprio ora che ho finito di scrivere il racconto. Sta accadendo tutto proprio in questo momento, quindi ho voluto cogliere davvero questo attimo e non sprecare nemmeno un minuto.